140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Warner Music, Milano. L'antologia di una carriera, musica senza padrone 1965-2015. 50 anni di batteria, vita e incontri per Tullio De Piscopo. Tutta la mia vita, la mia storia nasce sempre dall'infanzia e dalla giovinezza. Un giorno suonavo nel solito nightclub e avevo sempre questi tre musicisti, il cantante, il chitarrista e il trombettista davanti a me, che mi coprivano sempre. Allora io mi dovevo spostare qualche volta per guardare i clienti che venivano a ballare o qualche bella ragazza. Ho detto, ma prima o poi a chi sta mi levananza, me li tolgo davanti. Ci sono degli incontri importanti in questi inediti perché c'è il tuo passato, le tue origini, il tuo grandissimo legame con Pino Daniele, del quale è difficile parlare perché sembra di toccare qualcosa di quasi sacro. Sì. E poi il futuro con Rocco Hunt. Io volevo fare qualcosa dedicata al fratello Pino, però era difficile, capisci? E ho fatto una cosa che, se non lo sai, non lo percepisci, quindi è una cosa che scatta proprio dall'amore sincero, puro, vero. E c'è questo funky virus che è un po', anche qui rispecchia un po' l'ironia di Pino nel nonsense del rap, perché poi con lui avevamo fatto il primo rap italiano, che era Primavera, Stoppa Bayon, e proiettato al futuro, anche se sempre rispecchiando il pensiero mio dall'infanzia, quando la notte fantasticavo, pensavo, mio padre e mia madre che parlavano, o persona, a luce, o gas, il padrone di casa vuole l'aumento, i problemi che sentivo sempre, non avevamo una doccia, non avevamo un bagno. La prima cosa importante era che dimostrare che uno dei quartieri poveri di Napoli ce la poteva fare, quindi sono stato di esempio a tanti ragazzi e questo sono veramente orgoglioso, perché molti ce l'hanno fatta come me, anche ragazzi che ho conosciuto nei carceri minorili di Napoli ce l'hanno fatta, attualmente suonano percussioni, batteria, cantano. Per me questo è importantissimo. Respiro, l'esperanza. Chi ama davvero non ha mai paura. Riperle sempre ma mai abbastanza. Respiro, l'esperanza. Un viaggio lungo, un'intera esistenza. Respiro, respirando. Pensieri che portano pagina. Questa società c'è solo spazio. Hai parlato dei sogni, dei grandi sogni. Tra i tuoi sogni c'era anche Sanremo? Stranamente non c'era Sanremo. Tu sai che io ho fatto il batterista dell'orchestra di Sanremo per 3-4 volte. Però non era nei miei progetti, perché lo ritenevo troppo popolare, troppo. Però poi io, andando a Sanremo, ringrazio di essere andato a Sanremo, ho scoperto che mi ha dato Sanremo, mi ha dato Santo Andamento Lento, che mi ha dato la possibilità di comprare in contanti la casa che la mia famiglia si meritava. A proposito di famiglia, tu sei salito sul palco di Sanremo senza che nessuno lo sapesse, con un dolore enorme qualche anno dopo, e secondo me questo è quello che fa capire cos'è un artista e la vita di un artista rispetto alla vita di una persona normale. Sì, è stato tremendo, guarda, incredibile. Sapere della perdita della mamma 10 minuti prima di suonare, essere incoraggiato da giovani, perché gli altri non neanche mi hanno fatto le condoglianze, i big, sono venuti dei giovani. a pregarmi di andare sul palco baciandomi le mani, che ero distrutto su una poltrona. Però sai che devo ancora piangere quel momento, perché è stato represso, capisci? Anche quello fa parte di questi 50 anni di carriera, come la storia della mia malattia del 2012. Ma sono tutte cose belle, anche la malattia, perché adesso io vedo i tuoi occhi in questo momento, li vedo diverso da prima. Tutto quello che vedo fuori, anche le foglie morte d'autunno, sono belle. Scivola come notte libera, ti porta via. Andamento lento, questa melodia. Risonanze nere senza ipocrisia. Andare un po' più su e vieni, vieni con me. Show me, show me the way. Show me, show me the way. In Italia quando si dice batteria si dice Tullio d'Episcopo. E questa cosa che effetto ti fa? Beh, ti responsabilizza molto, no? Alcuni dicono un re, però tu sai che il re c'ha troppa responsabilità. E molti lo vogliono molti nella storia, tanti re li hanno voluto buttare giù. Per fortuna non ci sono riusciti fino a mo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Tullio d'Episcopo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.